Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non è cominciato nel migliore dei modi il D-Day di Coppa Campioni. Il bollettino, che ora per ora viene aggiornato dall'agenzia ANSA, riferisce in ordine cronologico di pugni e calci tra tifosi del Pisa e ultra del Manchester la scorsa notte in una piazza del centro pisano. Questi due gruppi erano entrati in contatto in maniera amichevole, poi pare che la differenza l'abbia fatta, come si usa in gergo calcistico, l'ubriachezza, sicché tutto è degenerato presto a botte e ci sono dei fermati. Poi andiamo avanti, due tifosi inglesi, 19 e 45 anni, la scorsa notte hanno aggredito a calci e pugni gli agenti di polizia intervenuti in un pub in piazza di Campo dei Fiori, quindi centro storico di Roma, perché stavano infastidendo i clienti del locale, poliziotti aggrediti, i poliziotti contusioni guaribili in 7 giorni di prognosi, i due inglesi arrestati per resistenza e lesione pubblico ufficiale. Poi controlli in generale con banconote false per pagare dei conti al Café de Paris, borseggiatori in azione, ma arriviamo poi agli episodi, al momento più grave, speriamo ci si fermi lì. Un giovane americano di 23 anni, aggredito da 4 ragazzi italiani all'uscita da un pub di Ostia, quindi sul litorale romano, a trovarlo la polizia, a terra, sanguinante, con questi 4 che infierivano su di lui con un coltello. Giovane soccorso, trasportato in ospedale, ferite abbastanza serie, 4 arrestati per lesioni aggravate, 4 romani tra i 20 e i 22 anni. Infine, ma sempre al momento, speriamo, un tifoso del Manchester United accoltellato intorno alle 2 di mattina in via Vitelleschi, nei pressi di Piazza Risorgimento, colpito con 3 coltellate alla coscia e una bottigliata alla nuca, non è in condizioni gravi. E in questo caso sono ancora da trovare i responsabili. Fronte Barcellona, per fortuna molto meno grave, ma 3 arrestati e 3 denunciati di 6 su 6 tifosi diretti a Roma e bloccati a Civitavecchia per un controllo. All'interno dell'auto avevano manganelli, un giavellotto e alcune altre. Oggetti contundenti. Roma non fa la stupida, si era raccomandato Platini, ma non si direbbe che per ora l'appello di Michel, come sempre giocato tra l'affetto e l'ironia, stia dando frutti rassicuranti. Sentiamo queste raccomandazioni dell'ultimo minuto di Michel Platini. Non abbiamo problemi, tutto è fatto al livello della sicurezza che vanno bene le cose, e dopo preghiamo. Non abbiamo nessuna preoccupazione, tutto è sotto controllo, abbiamo lavorato da un anno bene per queste cose, e dopo aspettiamo la partita. Il calcio è impredicabile, come si dice. Ci sono 2 bellissime squadre, grandi calciatori su questo prato, sarà una bellissima partita, questo sicuro. Il resto non lo so. Perché gli italiani sono persi? Beh, ci sono anche i francesi, i tedeschi, gli scozzesi, tutti sono persi per strada. Solamente un club spagnolo e un club inglese hanno fatto la finale. Altri argomenti, la stangata del giudice sportivo sul Torino, inevitabile d'altra parte, attesa, l'intervista di Paolo Maldini a Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport dopo la contestazione di domenica e la controreplica mattutina di Galliani, la tappa decisiva del Giro d'Italia con arrivo in salita al Blockhaus. Ospite dell'appuntamento di oggi, qui fisicamente in carne e ossa, nello splendore dei 90 mm, Antonio Di Pollina di Repubblica. Buongiorno Antonio. Non voglio sapere questa cosa dei 90 mm. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Senti, piano piano arriveremo al motivo vero della tua presenza in studio. Io adesso per esempio comincerei da alcuni argomenti marginali che riguardano comunque la finale, che marginali lo sono fino a un certo punto. Il titolo del Sole 24 Ore di stamane sulla finale di Roma, che campeggia in prima pagina, è la grande sfida dei debiti, Manchester-Barcellona 8-4. E poi all'interno Marco Bellinazzo in particolare, che è un aficionado, come ben sapete, un cliente fisso di questo programma, riassume i termini della vicenda. Gli inglesi sono in rosso di 780 milioni di euro, se parliamo di bilanci, un po' meno i blaugrana, che però sono aiutati dal fisco catalano, che è assai più leggero rispetto a quello inglese, rispetto al nostro. Quindi questa non vuole essere una consolazione certamente per le nostre squadre che non ci sono, però è anche vero che questi grandi eventi epocali è bene inquadrarli da tutti gli aspetti. Un anno fa Platini, dopo la finale di Mosca, aveva detto: sono un po' stufo di vedere che a giocarsi la Coppa Campioni sono squadre, sono club così indebitati. È passato un anno, il problema è stato affrontato, ma sono di nuovo due squadre discretamente tre volte dai debiti che si affrontano. Che si può fare? Che si può fare? Dal loro punto di vista, loro lo sanno, stanno per chiedere più soldi alle televisioni, per esempio. Quel sistema funziona sempre e temo che sia davvero l'unico che conoscono. Probabilmente sul Barcellona, come hai detto tu, a parte il fisco, si possono fare anche discorsi un po' più tranquilli, visto che sappiamo che è la famosa squadra che non c'ha lo sponsor sulla maglia, ma bensì reca la scritta Unicef, con un modello quello dei sottoscrittori, dei 140.000 sottoscrittori, che comunque o indica una strada oppure è una peculiarità assoluta che solo in un posto con l'autonomismo e così via può essere, dobbiamo decidere, ma in entrambi i casi siamo chiusi, credo, io non vedo soluzioni, e se uno come Platini appunto dice una cosa simile un anno prima e un anno dopo siamo ancora lì, evidentemente il problema è serissimo, solo che questa sovradimensione è assolutamente supportata dal fatto che c'è tutto il mondo oggi che aspetta questa partita, giustamente, che poi il caso ha anche voluto per una cosa all'ultimo secondo che fosse quella, cioè lì ci vedi anche delle cose astrali, faccio un passo indietro quando vedo cose simili. È vero tutto questo. Di sicuro domani, per dare il, come dire, per omaggiare la squadra neocampione d'Europa, ci sarà qua in studio Marco Bellinazzo che ci racconterà in dettaglio come si arriva, per la vincitrice in particolare, no? Come si arriva a queste spaventose cifre di debiti e quali sono le reali intenzioni dell'UEFA di porre rimedio. Poi tra i servizi di Oggi del Sole c'è anche il famoso richiamo al basket americano, cioè il tetto ai salari e tutte queste cose, ma insomma la Formula 1 anche c'ha qualcosa del genere, qualcosa si sta il fatto di tetti di spese, ma si capisce che dove non c'è la tradizione come nell'NBA americana, farla nuova, parlare di salary cap è la cosa più difficile del mondo, evidentemente. È abbastanza dura. E una delle chiavi di lettura, e su questo domani il nostro amico e collega Bellinazzo si esibirà, è su questa cosa anticipata già oggi in un articolo a Côté, che sono le regole troppo diverse nella UE in materia di bilancio, cioè questi regimi disomogenei che penalizzano la trasparenza e che creano differenze notevoli da uno stato all'altro. Poi stasera ci godremo la partita, ne riparleremo domani. A questo proposito, stasera con Carlo Genta e con me saremo dalle 22 alle 24 presenti qua in studio, e quindi aspetteremo i vostri interventi, i vostri commenti a caldo e tanti altri ve ne offriremo, sperando di commentare una partita probabilmente grande e di non dover ricorrere ai cronisti di Nera della redazione romana, che sono comunque ad ogni buon conto già sguinzagliati. E con eventuali supplementari da che ora? Con eventuali supplementari sempre dalle 22 alle 24. Perfetto. Vedremo di destreggiarci anche con i supplementari. Tu li vedi i supplementari? Io so che tu sei un buon giocatore, nel senso che ti piace cimentarti con la scommessa, con la puntata. Che cosa hai preparato per stasera? Con un po' di anticipo, perché se prima si gioca e quote migliori si incontrano, però c'era una quota troppo interessante sul numero dei gol complessivi. In casi simili, sbilanciarsi mettendo su una o sull'altra vincente è un rischio sempre troppo grosso, mentre invece sul numero di gol complessivi, tipo almeno 3, per gli esperti, per i non esperti, la famosa over, così, over significa over 2,5 segnato, vuol dire che complessivamente nella partita devono essere segnati più di 3 gol nei 90 minuti. 3 o più di 3 gol? No, il discrimine è 2,5, quindi da 3 in su. Così. È una cosa che in un caso simile, perlomeno se la quota è interessante, se vai per esempio al raddoppio, come è possibile in questo caso, non provarci è delittuoso per chi ha appunto la voglia di mettersi questo la piccola trippino. Cifra, per carità, il, proprio il coso simbolico, Però metterci il carico, divertirsi per... e aggiunge sicuramente pathos alla cosa, tanto che sempre più gente sta scoprendo questa cosa, e secondo me rispetto al dilagare di cose tipo Gratta e Vinci, qui siamo all'università siamo in un ambito nobilissimo e che prevede partecipazione molto più avanzata, che dà un pochino più di gusto. Però mettere su tanti gol o su almeno 3 gol, così chi può farlo ancora lo faccia. Poi in teoria non bisognerebbe mai dirlo prima, ma ormai l'abbiamo fatto. Ormai è scappato. Quindi, l'altro intrippato di scommesse, che è Flavio Suardi di là in redazione, mi segnala subito che over è a 1,95, e quindi con 10 parliamo. Euro nei incassi 19,5. Sì. Cioè, se ci metti la casa ti danno indietro 2 case, sì. Così. Ma non è questo. Ma non era quello che intendevi, sì, all'inizio. Eccolo, vediamo di nuovo. Però per dare la proporzione di quanto sia in sé, come dire, accattivante, attirante, perché giustamente i bookmakers devono anche attirarti in qualche modo, rende abbastanza l'idea. Senti, da tifoso dell'Inter, io ne ho sentiti più di uno, per esempio stamane su Al Sole 24 Ore, finita la riunione, anche pezzi grossi del Sole, da interisti, sono tutti schierati per il Manchester, per il solito discorso che una vittoria del Manchester rivaluterebbe l'eliminazione dell'Inter. Tu sei su queste posizioni oppure? Assolutamente no, no. Sono quasi un barcellonese d'adozione, certo. E comunque tiferò rigorosamente Barcellona, anche se non riconosco particolari peculiarità al fatto che, cioè, per me non è assolutamente Cristiano Ronaldo contro Messi, che sono due giocatori strepitosi, ma che non mi solleticano granché dal punto di vista complessivo, diciamo, della figura del calciatore. Ma per esempio Iniesta, se in condizione, sì, adesso, certo, non so le ultime, ma davvero, no? Esatto, non si sa esattamente, o gli altri, o il Giro, o Guardiola, che comunque vive un'avventura assolutamente interessante, più la barcellonesità, che per chi la frequenta, chi l'ha conosciuta e tutto, ti coinvolge per forza, mi rende assolutamente... L'altro discorso, no, sono assolutamente convinto che non doveva, cioè non dovevamo da interisti finire secondi nel girone eliminatorio, certo, e consegnarci mani e piedi a un finale assolutamente scritto e tentare di andare, cioè, comportandosi in un altro modo prima, probabilmente un passo in avanti che avrebbe dato un altro segno alla stagione, certo. Anche perché si beccavano squadre non più nella condizione di quel momento, perché poi si è visto, no, che esatto. Liverpool per esempio a un certo punto si è un po' squagliato, il Manchester ha avuto un turno successivo con un passaggio a vuoto discreto col Porto, eccetera. Se ne poteva parlare. E invece ci siamo consegnati all'esito opposto, ovvero che esci in quel momento, hai praticamente già vinto lo scudetto, quindi cominci a giochicchiare, vai giù, perdi a Napoli, e intanto vedi questi che vincono i loro campionati, fanno match stellari e dici no, non ce l'avremmo mai fatto. E invece è un'illusione ottica. E invece ottica, in un momento non è possibile. Così. Esatto. Bastava giocare un po' più seriamente con Anortosis, esatto. No? Olimpiaco, non mi ricordo. Quelle lì non le voglio ricordare. Non è solo... Hai rimosso. Sì. Hai parlato di Guardiola, c'è un breve frammento che potremmo ascoltare di questo indubbiamente uomo nuovo del calcio europeo in questa stagione. Sentiamo Guardiola. Siamo qua, in questo paese, in questa città, a fare una bella prestazione, a mostrare al mondo... o trattare di mostrare al mondo quello che abbiamo fatto durante tutto l'anno per riuscire a alzarci la coppa. Sì, era un frammento davvero breve, ma certo non è uomo da grandi discorsi Guardiola prima. C'è un grande elogio stamane su Guardiola firmato da Cruyff sull'Equipe, in cui ricorda a parer suo il merito principale di Guardiola, che o meglio, i meriti sono tanti, ma lui ne sottolinea uno in particolare. E ricorda che dopo questa stratosferica vittoria di Madrid in campionato, quel 6-2 che probabilmente ha incantato tutti noi, no, che amiamo il pallone, e ci ha lasciati veramente stupefatti per la bellezza, Il giorno dopo credo ci fosse libertà, il lunedì mattina, ebri di questo 6-2, con i giocatori facevano fatica a attraversare, arrivare al centro sportivo perché travolti dall'affetto popolare, tre di loro, che si chiamavano uno Messi e gli altri due non ricordo, ma insomma non tre Frillini o tre Rincalzi, sono arrivati con un minuto di ritardo all'allenamento e si sono beccati un multone di qualche migliaio di euro. E Cruyff dice: sembra una banalità o sembra un luogo comune, invece questa è una legge nuova che Guardiola ha portato. E poi con risultati simili sul campo, qualunque cosa abbiano adottato, ti viene da dire che è quello il sistema giusto per giocare. Peccato per Ronaldinho che non c'è più, che sì, poteva essere. Va bene, allora un po' alla volta arriveremo anche su quel cotè. E poi a un altro ancora. Capitolo Maldini, poi arriveremo a quello per cui Antonio Di Polina oggi è qua, presente in studio. Intervista molto amara di Maldini, titolo sia di Corriere che Gazzetta: che brutto il silenzio del Milan. Spiegazione di Maldini: la società non si è ancora dissociata, pensavo che un suo atto pubblico fosse dovuto. Dice testualmente: devo dire che pur essendo passate più di 48 ore dall'episodio, la società non ha ancora preso posizione. Il Milan avrebbe anche potuto dissociarsi e invece non l'ha fatto. La risposta di Galliani è, direi, abbastanza affettuosa ed è: caro Paolo, ho letto la tua intervista e capisco la tua amarezza. Io sono sotto scorta come sei da 2 anni proprio a causa dei comportamenti di quelle persone che ti hanno contestato. Sono stato io a prendere la decisione di tacere, non solo perché mi è stato consigliato, ma soprattutto perché ho ritenuto e ritengo tuttora che il silenzio sia l'arma più efficace per non dare ulteriore spazio a condotte quali quelle di domenica. Io vorrei conoscere la tua opinione di critico televisivo e quindi di studioso di fenomeni mediatici, perché in questi casi insomma, i discorsi più o meno li conosciamo, cioè viene dato troppo risalto a 150-200 persone, insomma, che grosso modo è la stima ragionevole che è stata fatta, da una parte. Dall'altra, il villaggio globale ormai ti fa vedere i primi piani e le cose di Baldi, insomma. Per cui la linea del silenzio, che fu quella storica adottata dagli inglesi, per esempio nell'85 dopo, sulle prudenze di questa gentaglia, oppure la denuncia sperando che un po' alla volta il disgusto d'accumulo si faccia strano? Allora, la seconda mi verrebbe da dirti, se non fosse che quella denuncia, che il fatto di mettersi lì a denunciare fortemente, passerebbe da questa televisione, cioè passerebbe comunque dal fatto di mettersi immediatamente al servizio di, non so, programmi televisivi che si mettono a invitare tifosi e così via, e che di loro hanno come compito quello dell'effettaccio, del richiamare in maniera così. Quindi no, sarei quasi di più per il silenzio, aspettando che passi, ma ognuno deve fare però delle riflessioni abbastanza forti su quello che è successo. Quella, la cosa di domenica, era c'era da restare esterrefatti, per quanto, per di più, in attesa in quel modo, ma se l'ho detto, dimmi un milione di cose che possono succedere mentre Maldini fa il giro del capo, nessuno avrebbe potuto indovinare. Mettere quella non l'avremmo messa, e allora bisogna anche pensarci un attimo su anche su come ci comportiamo e su cosa pensiamo tutti i giorni, sul rapporto, su cosa è ormai la figura del campione calcistico, su cosa è ormai questo calcio, su quanto figure un po' disprezzate, ma anche un po' mitizzate, perché in fondo ci sono anche quelli insospettabili che pensano: beh, però sono quelli che vanno alle trasferte, che danno calore. Cioè, calore. Da sta cosa qui bisogna uscire un giorno là. Cioè, basta con davvero, calore. Non se ne può più. Però è un segnale di calcio che cambia, di calcio in trasformazione, come altri campioni dimostrano, per esempio, e magari ne parleremo dopo, molto forte. Ognuno di noi deve rivedere in qualche modo il suo rapporto con quella che è l'immagine del pallone in questo momento. Ci sono due ascoltatori collegati, non vorrei farli aspettare troppo, però mi piacerebbe, trovo doveroso prima leggere questo, per chi non ha letto questa intervista, leggere un frammento ancora di Paolo Maldini, perché la domanda dei colleghi sia di Gazzetta che di Corriere è: ma cosa è successo esattamente tra lei e gli ultra? E la risposta è questa: da quello che alcuni di loro sono andati a dire in TV, io gli avrei dato dei pezzenti, ma una parola del genere non appartiene al mio vocabolario. La verità è un'altra: in tutti questi anni ci sono stati due motivi di frizione. Il principale, nel 2005, di ritorno alla finale di Istanbul, all'aeroporto mi si avvicina uno di 20 anni e mi dice: ci dovete chiedere scusa. Cosa? Io gioco da 20 anni e devo chiedere scusa a un ragazzino dopo una finale persa ma dominata sul piano dello spettacolo? Ma siamo diventati matti. Ecco, questo secondo me è un passaggio chiave. È il punto, forse. È il punto chiave per, da una parte, il giocatore che ha il rispetto di se stesso e che quindi non si mette a 90 gradi per qualsiasi ragione sia, cominciata la paura fisica di fronte a questa gentaglia. Prima, la seconda è la smania di protagonismo di quegli altri che credono che il Milan o l'Inter o la Scafatese o sia cosa loro. E sia comunque quello che ci succede intorno sia comunque un teatro dove è possibile esibirsi in qualche modo. Ma francamente mi inviti a nozze, perché dov'è che non c'è oggi nel sistema mediatico complessivo questo invito clamorosamente demagogico all'apparire, all'esserci, al programma? Una volta si scherzava su "il programma lo fate voi" ed era diventato una gag, poi è diventato una sorta di per cui si giustifica tutto con i risultati che vediamo. C'è cittadinanza per tutti con una leggerezza spaventosa, purché muova cose, e poi i risultati sono questi. Caro Gigi, scrive Francesco da Milano, ma perché i dirigenti calcistici parlano quando dovrebbero star zitti e stan zitti quando dovrebbero parlare? Non è male questa, caro Francesco. Ferdinando, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io sono preoccupato per domani. Sì. Cosa lasceranno queste persone nella città di Roma? E se è il caso di rifiutare per il futuro di ospitare una manifestazione che sportiva non lo è più, visto la montagna di debiti che hanno queste squadre? Tutto qua. Beh, adesso che sportiva non sia più, ci si deve intendere, io credo, nel senso che è sportiva, anzi oggi è la più bella partita che si possa vedere al mondo, nazionali incluse, perché non ci sono, contando anche nazionali, non ci sono un altro Barcellona, un altro Manchester che si incontrano direttamente in una finale, quindi lo spettacolo no, per cortesia, quello rimane come. Poi è giusto cominciare a vedere questi fenomeni, questi grandi avvenimenti anche in controluce, come, ripeto, ha fatto l'UEFA fin dall'anno scorso e come oggi è giusto fare per migliorarli, per arrivare magari a finali più magre da un punto di vista spettacolare, con meno artisti, ma più sane da un punto di vista di bilanci e di rispetto delle regole. Però adesso questo non direi. Cosa lasceranno sul... Domani, guardi, speriamo che non ci siano scie, no? Tracce di sangue, non vorrei essere retorico, ma se non c'è quello, il resto sono grandi immondizie, sono bottiglie di birra vuota, ma il ritorno che Roma ne ha e che l'Italia ne ha per essere teatro di una sfida come questa e che ha voluto fortemente è comunque superiore poi a... Con tutto rispetto ai problemi della nettezza urbana, insomma, no? Alla fine. Fiorella, provincia di Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io ho telefonato per un motivo preciso, però lei mi ha dato il pretesto per fare una piccola digressione, se mi perdona. Certo. Cioè di fare una chiosa sul comportamento dei tifosi negli stadi. Guardi, per me è stato un ottimo motivo per non frequentarli e guardarmi le partite in televisione. La capisco, cioè, vale anche per me da 6 anni, quindi si immagina, allora, se la capisco. A parte questo qui, io sono un interista da ben 62 anni e vorrei rispondere a quello che lei ha chiesto al suo ospite in apertura di trasmissione, cioè gli ha chiesto se tifare Manchester non fosse un imperativo per gli interisti per rivalutare l'Inter. Beh, io le dico che l'Inter non ha bisogno di questo, ma tanto più che pare, ho appena sentito la rassegna stampa di Inter Channel, pare che Sir Alex Ferguson, in una conversazione con un ex campione ormai in pensione, abbia detto che l'avversario che lui ha più temuto e che è stato più difficile è stata proprio l'Inter, e che lui è stato molto contento di averla incontrata a metà strada ed essere riuscito a eliminarla. La ringrazio tanto. Grazie, grazie a lei, Fiorella. Grazie, grazie signora. Immagino che non ci fosse il marchio Milan Channel sul microfono a cui ha parlato Ferguson, no Deep? Perché questi vecchi comandanti navigatori sanno vivere, come sanno che sanno cosa dire al momento giusto. Hanno il senso dell'orientamento, scusa. Sì, sì, sì, sì. Bene o male, sì. No, beh, chiaro che da interisti un minimo di orgoglio dobbiamo mantenerlo, ma bisogna anche essere un po' realisti. Poi io personalmente faccio parte di quelli che sono convinti che anche in quella buona partita di ritorno a Manchester, se anche fosse entrato il colpo di testa di Ives, se anche fosse entrato quello, il Manchester aveva solo il problema di ripartire e piazzare due cose, che il disastro che si era combinato a San Siro non l'avremmo mai più messo a posto. Quindi bisogna essere un po' più realisti e laici su quell'occasione. Ferguson poi può dire con quella bocca può dire quello che vuole. Sa cosa le dedicherei, signora Fiorella? Questa frase di Maldini, un'altra frase di questa intervista, perché è davvero bella e davvero molto lusinghiera per voi interisti. Maldini dice: c'è stato un vero paradosso, no? E ha lasciato la frase in sospeso. E quale sarebbe, gli ha chiesto l'intervistatore, lo striscione affettuoso che mi ha dedicato la curva dell'Inter nell'ultimo derby, soprattutto adesso se paragonato a quello di domenica della curva del Milan. E poiché alcuni scrivono, e per esempio avevo un messaggio sotto il naso appena arrivato, adesso lo ritrovo, da Firenze, in cui si dice, grosso modo, mi spiace di non ritrovarlo più, ma il concetto è: faremo noi domenica a Firenze anche la parte che non ha fatto quei 200 di domenica scorsa, rendendo il dovuto omaggio a Paolo Maldini, noi tifosi della Fiorentina. Per fortuna le telescrive, insomma, l'ANSA ha smesso di battere notizie di coltelli, di lame, almeno per il momento, speriamo che duri. In compenso ne ha battuta una splendida che vi leggo. Carletto Mazzone ha appena raccontato al TG1 la sua emozione per la telefonata ricevuta da Pep Guardiola. Mi ha chiamato per salutarmi e per invitarmi alla finale dell'Olimpico col Manchester. Io ho detto, ma chi parla? E lui, solo Pep Guardiola, pensavo a uno scherzo, sono veramente commosso, Pep è stato meraviglioso. Ogni tanto sono... Bella storia, bella favola. Senti, TG1, TV... critico televisivo in studio, istruzioni per l'uso di stasera, cioè potendo scegliere uno dove la guarda, nel senso di da chi se la fa raccontare, potendo scegliere, no, questa... domande da amici, no? Sì, naturalmente, certo. E facciamocene altri, soprattutto. Ancora. Si capisce. No, lì va a gusti personali, nel senso che se uno mi dice io sono affezionato alla tradizione, per me la finale di Coppa, e magari dice anche Coppa Campione invece di dire Champions, me la certo. Voglio guardare sulla Rai con chi c'è, benissimo, io gli do ragione, a suo rischio e pericolo, come con quasi tutti, ma va molto bene. È abbastanza chiaro che visto che siamo in Italia c'è anche la produzione, vuol dire le telecamere, cose di Sky, e che Sky finanzia alla grande tutto quanto, questi quelli della Pay TV si sono presi una bella fetta di impegno, immagine e voglia di ritornare. Chi ha la fortuna e la possibilità per esempio di utilizzare già l'alta definizione sul televisore e ha già visto delle partite trasmesse in questo modo, sa di cosa parlo, conosce la differenza di nitidezza e di cose, anche se spesso viene venduta come una cosa che rispetto a tutto il resto ti fa vedere in faccia bene gli spettatori dietro le porte, cosa di cui francamente no, si può anche fare a meno. Però per esempio Sky che ha lanciato quest'anno questa meravigliosa Spidercam, questa telecamera aerea con cabrate e picchiate che danno anche un minimo di senso di, come dire, disorientamento certo. Al telespettatore, la userà anche stasera e c'è caso che si veda anche sulla Rai nonché in tutto il mondo, quindi chi ha la possibilità di utilizzare e ci tiene un po' a queste cose, probabilmente se è dotato di televisori di nuova generazione vede uno spettacolo clamoroso, ma massimo rispetto anzi per chi col vecchio analogico 4x3 e non 16 nonni si cercherà sembrerà di vedersela vecchio stile. Scusa, ma se io trovassi per caso in cantina un vecchio bianco e nero, per dire, la Spider-Cam la vedo lo stesso? O no? Ma la Spider-Cam in bianco e nero credo che faccia effetti, potrebbe, sì, potrebbe avere effetti allucinogeni quasi. Cioè, altro che l'otto volanti. Senti, un attimo di pazienza a questi due ascoltatori. No, il primo lo passo in onda per ragioni geografiche, mi chiama la Massa Carrara, quindi credo che Alessandro, per ragioni appunto di vicinanza, di contiguità con Antonio Di Polina, debba parlare. Alessandro. La ringrazio. Dica. Volevo una cosa, dire che l'ultima volta che ho visto la semifinale Chelsea-Barcellona ho tolto l'audio, perché l'ho visto sulla Rai, ho tolto l'audio perché non riuscivo più. Ridagli. Spagna, pensavo che avesse giocato il Chelsea in maniera disumana, non so in quanto gli avesse, ci avesse messo sopra, perché era una cosa veramente scandalosa. Però a parte quello, che era una mia visione, volevo dirle, per quanto riguarda l'Inter, prima avete parlato che sono arrivato secondo, quindi ha incontrato il Manchester, e con quello che sta facendo ora, che praticamente Mourinho si è fatto dare 10 milioni di euro e si vuole far rifare la squadra perché non è una squadra all'altezza, non è sembra un po' scandalosa questa cosa qua? Alessandro, io credo che c'è un interologo qua di provata fede e di provato collaudo, nel senso che ne ha viste tante in vita sua. Sentiamo da lui. Cosa vogliamo dire? Che una volta che si è deciso l'anno scorso di fare quel salto, di forse anche inevitabile, di rinunciare a quello che bene o male aveva cambiato un po' la prospettiva storica anche di questa squadra stando in panchina, che poi fosse tutto merito suo o cosa, è un altro discorso, ma il punto è stato quello. Una volta che coscientemente hai deciso quello e ti sei affidato a un personaggio che un po' lo sapevi com'era e poi ti è abbastanza esploso in mano dal punto di vista mediatico di quanto è diventato importante in questo paese quel signore portoghese lì, ma non parlo solo di calcio, beh, a quel punto dire che è scandaloso tenerselo o dargli di più vuol dire dirsi da soli che ci siamo fatti del male, ma succede in molti campi della vita spesso e con discreta regolarità ed è inevitabile. Dopodiché il fatto che molti, quando sembrava che se ne stesse andando perché Florentino Perez prendeva tutto il mondo e tutti quanti sostenevano di essere voluti da Florentino Perez, che molti si siano augurati, sì, facciamolo ora e subito e mettiamo un altro, dà un po' il segno del futuro che ci attende, che è quello che mi interessa, ovvero di una cosa che non sarà compiuta fino a una cosa che si chiama conquista della Coppa Campioni, che non è come dirlo, cioè voglio dire, non solo per l'Inter, ma per chiunque altro. Certo. Eravamo su Mourinho. Nei giorni scorsi abbiamo parlato molto, e anche poco fa, no? Col caso Maldini, dei tormentoni rossoneri. Abbiamo parlato anche, sempre nei giorni scorsi, di questa biografia che Carletto Ancelotti ha scritto con l'aiuto di Alessandro Alciato e che è stata presentata ufficialmente ieri a Roma. Questo ascoltatore di Massa Carrara ha introdotto un tormento peraltro già concluso. Non so quanto gloriosamente dal mio punto di vista, perché io lunedì mattina avrei chiamato Allegri e avrei detto: a proposito Allegri, lei è il nuovo allenatore dell'Inter, ma perché secondo me è meglio vivere un giorno a Leone che c'è, ma comunque questo è tutta un'altra storia che non c'entra, è un inciso. Dicevo, c'è un altro tormentone che riguarda l'Inter, che è tuttora il destino in sospeso di Ibrahimovic. Io credo che Ibrahimovic e altre cose avessero talmente rubato la scena a Mourinho che si è dovuto inventare che Florentino Perez l'aveva cercato, ma insomma questa è una c'è caso, potrebbe anche essere. Parliamo invece di Ibrahimovic e parliamone con Antonio Di Polina, di cui è appena uscito in libreria, per i tipi, come si dice in questi casi, di Baldini e Gastoldi, è uscito un libro che si chiama Ibra, per l'appunto. Punto esclamativo. Ibra col punto esclamativo. Che cos'è esattamente? Guarda, era innanzitutto la mia voglia di provare a occuparmi di questo personaggio che mi è sembrato da subito inedito. Per certi versi, sia per certe cose che faceva sul campo, sia per quanto poco si riuscisse a capire di come era fuori. Quindi prendendo, come dire, i punti fissi della sua biografia, andando un po' a cercare questa storia che nasce in un quartiere che che è facile definire ghetto, ma il quartiere ghetto di Malmo non è il quartiere ghetto di Rio de Janeiro, cioè il quartiere ghetto di Malmo è una cosa di welfare abbastanza evoluta, sì, nel tempo delle socialdemocrazie svedesi degli anni 70, in cui sono confluiti davvero tutte gli immigranti soprattutto dall'est, e sbuca questo ragazzino lungo e che tutto il giorno gioca pallone, e dopo un po' si capisce che lo fa in una maniera e che comunque tocca la palla e che comunque ha una decisione nel fare le cose incredibile. L'evoluzione che poi lo porta oggi a essere per usare quelle sintesi che ogni tanto servono, è l'unico giocatore che mi sembra uscito da un videogioco e fattosi carne, da una PlayStation di oggi, quando li vedi che li muovi fanno cose, ecco, così, e si è incarnato anche con movimenti in campo, cose che non... Non hai visto, che forse possono richiamare il Van Basten, ma solo per approssimazione, e comunque secondo me è un'altra storia, un'altra evoluzione, un altro, cioè è in ogni caso 20 anni dopo sono, e quindi cose ne sono successe. Detto questo, a quel livello di talento, soldi, guadagni, popolarità e così via, tu hai una quasi inevitabile origine anche, appunto, sì. La Bosnia, la Svezia, le contaminazioni, tutte le contaminazioni possibili, ti aspetti che fuori dal campo ci sia un guaio vero che va in giro, cosa che lui un po', Ibra, un po' lo è, ma fino a 20 anni, quando è ad Amsterdam, quando inizia a guadagnare 1 milione di euro stagione, e allora è giovane, fino a che c'è il trasferimento in Italia, c'è questa signora moglie che irrompe sulla scena, che lui sposa, che è più anziana di lui di un po' di anni, con cui fa 2 figli, e in quel momento Ibra si chiude in casa quando non gioca. Non solo si chiude in casa, ma vive in posti di cui non conosce nulla, cioè non esce, cioè sta a Milano ma conosce la strada che lo porta da Piano Gentile, il resto non lo vede quasi mai, sta in casa, appena c'ha 2 giorni, tanto per capirsi, piglia l'aereo e va a Malmo, dove si è preso una casa ovviamente spettacolare, dove il suo sponsor gli fa fare iniziative benefiche e così via, e uno dice, ma come? Uno così, che in campo ha quegli atteggiamenti, ha quella grinta, quella cosa, com'è possibile che fuori non dia soddisfazione non a quelli che cercano, certo, materiale di questo tipo? Ecco, quella è stata anche una caratteristica che mi ha incuriosito. Ho messo assieme i punti fissi, salienti, importanti della sua biografia, e ho provato a cucirli seguendo questo filologico, cioè il prototipo di una sorta di calciatore del futuro, che può, di fuoriclasse del futuro, che può piacerci, non piacerci, è un altro discorso, ma che da cui sarà abbastanza difficile prescindere nel futuro, nell'analisi anche che faremo degli altri campioni che prima o poi verranno fuori. Interessante quel discorso sulla quel resoconto di Metamorfosi. Dobbiamo correre un po' oggi, il momento del ripasso di storia. Nicola Filippone. Sembra ieri. 27 maggio 1934. A Roma, la nazionale italiana debutta in una fase finale dei mondiali, battendo gli Stati Uniti agli ottavi di finale per 7-1. Protagonista principale della goleada, il centravanti Angelo Schiavio, autore di 3 reti, assistito dall'italo argentino Mumo Orsi, che realizza 2 gol, e da Giovanni Ferrari e Giuseppe Meazza, a segno una volta a testa. La sfida con gli Stati Uniti è l'ultima apparizione in azzurro per il capitano Virginio Rosetta, che sarà in seguito sostituito dal terzino del Bologna Monzeglio. Nelle successive tappe di avvicinamento al primo successo mondiale, il CT Pozzo affiderà il ruolo di capitano al portiere Combi. Andrea in linea da Livorno, buongiorno. Sì, ciao, buonasera. Dica Andrea. Io volevo fare un intervento riguardante il discorso della contestazione che ho sentito è stata fatta, diciamo, a Maldini nel giorno dell'addio, non riguardante diciamo direttamente Maldini, perché non so cos'è successo, sentivo la radio, quindi però volevo, diciamo, da frequentatore degli stadi, volevo dire, diciamo, la mia. Io credo che ogni tanto bisognerebbe però anche tenere presente che se la cosa è chiaramente nell'ambito della contestazione civile, i giocatori sono delle persone che sono lautamente pagate, che non tutti si comportano sempre in certe situazioni. Non sto parlando di Maldini perché non so la questione, ma parlo in generale, però credo che sia anche diciamo possibile da parte di un pubblico che paga per andare a uno stadio, quindi sì, si leva da delle finanze molto basse familiari i soldi per un abbonamento, per un biglietto, per un abbonamento televisivo per vedere. Credo che non c'è niente di male, anzi sia anche un diritto poter Andrea, dire il diritto al dissenso è indiscutibile. Diventa incredibile quando il fischio, la contestazione non riguarda una prestazione, una partita, una sconfitta come poteva essere domenica, ma riguarda una carriera di 900 e passa partite, anzi di 1100 partite addirittura in totale, mettendoci anche quella della nazionale, di un giocatore che è il simbolo stesso della... Poi se vogliamo invece, per carità, se proprio in queste occasioni vogliamo rispolverare la carta dei diritti e dei doveri, rispolveriamola pure, ci mancherebbe altro. È pronta la sigla per il collegamento con il giro. Voci dal giro. Siamo già collegati con Piero Augusto Stagi. Buongiorno Piero Augusto. Ciao Gigi. Ciao, abbiamo un minuto circa perché tu ci descriva questa tappa che intanto insolitamente deve ancora partire, perché parte mi pare alle 15.10 e con quante probabilità su 100 ci direi tu deciderai il giro? Ma per quanto deciderà il giro che ci credo poco, partirà alle 15.10 come hai detto tu, 83 km di tappa, quindi bonsai, un assaggio di tappetta, il Blockhouse è una vera salita, però anche questa è stata accorciata per ragioni organizzative, se in cima c'era la neve fino a 20 giorni fa e quindi parte della sede stradale non hanno potuto riasfaltarla, c'è troppo fango e neve per mettere, diciamo, le strutture del Giro d'Italia, quindi arriverà a 4 km 500 metri prima. E questo sarà semplicemente un'esibizione per scalatori e penso che oggi possa essere un premio di consolazione per Danilo Di Luca, che farà di tutto per vincere davanti alla sua gente, ma credo che al massimo riuscirà a portare a casa degli abbuoni, ma Dennis Menchov gli sarà a ruota e al massimo gli concederà 5 secondi, non di più. Pronostico molto preciso, oltre che realista, oltre che non certamente non eccitante, ma per l'appunto molto realista. Grazie allora a Piero Augusto Stagi, sigla. Voci dal giro in collaborazione con il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere Transit Van Turbo Diesel Common Rail a 10.500 euro. Abbiamo 3 minuti, i primi due li occupiamo per ascoltare un'intervista che ci ha mandato Dario Ricci da Roma, ha incontrato un plurivincitore di Coppa Campioni col Marsiglia prima nella Garde Noire del Marsiglia di Goethals e poi nel Milan di Atene, che è Marcel Desailly. Soprattutto che penso che Barcellona avrà la palla, quando guardi le ultime partite che hanno giocato la possessione è sempre dal Barça, però il Manchester sarà nel suo modo di contrattare, perché gioca sempre così tutta la stagione, li hai visti a casa o fuori casa, sono molto forti a livello difensivo con Vidic, Ferdinand, hanno proprio una forza incredibile, poi ripartono con Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney, che sono capaci a ogni momento di fare la differenza. Chi può essere il protagonista, l'uomo decisivo? Sicuramente che Cristiano Ronaldo sarà uno di questo, poi dopo nel Barcellona può venire da tutte le parti, perché loro giocano un calcio proprio divertente prima, poi fanno sempre la differenza, riescono sempre a segnare un gol. Vedi, con il Chelsea hanno tirato 11 volte in porta, sbagliato, però una è andata dentro, e questo è il Barcellona, che anche 10 contro 11 hanno sempre continuato a giocare. Per quello che mi piace il Barcellona, e spero che il Barcellona riuscirà a vincere questa Coppa Campione. C'è sulla panchina del Barcellona quel Pep Guardiola che avevi abbattuto nel 94. C'è qualche somiglianza tra quel Barcellona di Cruyff e questo di Guardiola? Sì, ma lui è stato, diciamo, è cresciuto con Cruyff e con questa tecnica, questo gioco di passaggio della palla. Allora penso che il suo Barcellona sarà più forte, più forte che quello di prima, perché non lo so, sento un'identità, qualcosa in più, ci sono più spagnoli, mi piace tanto questo Barcellona. Viva Biel nella storia del basket, scrive un ascoltatore di nome Carlo, a cui rispondo da biellese: l'appetito viene mangiando. Non è poi detto che non ci sia un gradino ancora più su in questa storia, ma abbiamo tempo di rifletterci. Un minuto scarso per questa domanda ad Antonio Di Pollino, per chiudere questa sua gradita partecipazione in diretta da Tempo di Sport. Ed è questa: sulla base di come hai studiato Ibrahimovic, di come l'hai ricostruito, di come l'hai descritto e raccontato in questo tuo libro, che ripeto si chiama Ibra, punto esclamativo, da edito da Baldini e Castoldi, come può evolvere e chiudersi e finire il tormentone che oggi comunque è in essere? Allora, io il libro l'ho dovuto chiudere ad aprile, quindi nell'ultimo capitolo ho dovuto rischiare un po', sbilanciarmi, e a costo di essere ancora smentito nelle prossime ore, io ho votato affinché ho pronosticato che Ibra non si muoverà, perché probabilmente il mondo attorno sta cambiando e il mondo del calcio soprattutto sta cambiando, e forse non è già più adatto alla sua idea di non appartenenza, al fatto di essere... soprattutto al fatto di essere quasi plastificato rispetto ai campioni del passato. La sfida è capire quanto questa sua voglia di non appartenere e di avere mal di pancia continui e di basarsi solo sul talento si adatterà al calcio che va, come abbiamo visto, crisi, o lo indurrà a più miti consigli per il futuro. Vediamo se sarà davvero un lieto fine come pronostica Antonio Di Pollina. Grazie a lui, quindi ad Antonio, grazie a Giacomo Spunti in regia, a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a stasera per lo speciale Coppa Campioni 22-24 e poi regolarmente a domani.